Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono passate da pochi secondi le 17:10. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Parleremo sicuramente di mercati finanziari che oggi però hanno una giornata, non dico fiacca perché in realtà la giornata è molto vivace, è fiacca perché mancano all'appello le contrattazioni di due piazze importanti, è chiusa Londra per festività e sono chiusi anche i listini americani per il Memorial Day e quindi sicuramente manca un apporto fondamentale all'andamento della seduta in borsa, ma diciamo che quelle aperte regolarmente, Parigi, Francoforte, Milano e anche le altre più piccoline, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, tutte quelle europee, si disinteressano abbastanza della mancanza di questi contributi perché da questa mattina sono partite molto bene e stanno insistendo sul finale con dei rialzi decisi. Particolarmente forte è la piazza tedesca che segna più 2,45% e poi cercheremo di analizzare le ragioni di questa spinta che per la verità è partita già stamattina dall'Asia. Pare che arriveranno nuovi stimoli monetari importanti dal governo giapponese e da questa mattina l'onda lunga giapponese si è fatta sentire in Europa e questo è un tema, ne parleremo sicuramente. Gli altri temi che affronteremo in questa trasmissione, in questa puntata di Focus Economia. Allora, c'è molta preoccupazione fra la popolazione italiana, lo sapete, per le ricadute economiche del coronavirus. Superata l'angoscia per tutto l'effetto sanitario, per chi ha potuto superarla, se naturalmente non si hanno avute delle vittime nell'ambito del nucleo familiare, anche nell'ambito dei parenti e degli amici, e c'è però adesso la ricaduta drammatica dal punto di vista economico. C'è un sondaggio molto importante che ha diramato oggi LegaCoop, condotto da SVG, secondo il quale per i 2/3 degli italiani c'è un'importante paura della recessione economica, c'è un'angoscia per le nuove abitudini che si stanno assumendo, chiaramente parliamo del distanziamento fisico, della nuova modalità di praticare gli esercizi commerciali, delle nuove modalità di consumare, le nuove modalità appunto di spostarci, e questo è un tema. E in più gli italiani rilevano, ma ne parleremo diffusamente con il presidente di LegaCoop nazionale Mauro Lusetti, c'è anche una forte evidenza fra gli italiani secondo la quale c'è uno stretto legame fra la pandemia e le condizioni ambientali, ma cercheremo anche di capire un po' il mondo cooperativo come ha vissuto questa fase, che ricadute ha avuto e come pensa che il nostro paese possa ripartire in questo momento, a patto che lo si riesca a fare anche in tempi ragionevoli. Parleremo poi di un'altra giornata, era da un po' che non parlavamo di questo argomento. Oggi la cronaca ci impone di ritornare a Taranto, alle vicende di Ilva. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico, virtualmente, perché come sapete ormai questi meeting, queste call, si fanno le call, non si fanno più meeting fisici, al Ministero dello Sviluppo Economico appunto è stato rifatto un punto della situazione sullo stato di avanzamento dell'accordo che è stato siglato tra l'azienda, le parti sociali e il governo appunto a marzo, il punto del piano industriale che ArcelorMittal si è impegnato a portare avanti, ma c'è larga insoddisfazione e oggi tutti i dipendenti hanno incrociato le braccia e quindi è partito un nuovo stato di agitazione e ne parleremo tra poco. Poi parleremo di un altro tema molto interessante, questo parzialmente generato anche dalla crisi economica determinata dal Covid-19, ma in realtà è un fenomeno che stiamo esplorando da tempo: come pagano gli italiani i propri acquisti, ma non solo, qual è il tema più gettonato quando parliamo appunto di pagamenti. Oggi un'inchiesta del Sole 24 Ore ci racconta, intanto ci anticipa cosa succederà dal 1° luglio, quando scatteranno limiti più stringenti all'utilizzo l'uso del contante. La soglia per i trasferimenti di cash, di contante, fra soggetti diversi si abbassa da 3.000 a 2.000 euro, e questo sappiamo che non è un tema che piace moltissimo alle persone, ma questo succederà. Non è un qualcosa determinato dal coronavirus, erano già dei provvedimenti presi in passato che gradualmente stanno diventando operativi. Ma il punto è che in realtà, con tutto il cambiamento di abitudini di consumo che abbiamo dovuto sostenere, banalmente la spesa portata a casa, farci portare la spesa dal supermercato di fiducia a casa, significa che tu devi fare l'ordine da casa e pagare con la carta di credito. E allora molti italiani, che prima magari lo accettavano di fare molto meno, adesso si sono adattati agli strumenti di pagamento elettronici, hanno capito che tutto sommato la vita è anche più semplice, e quindi questo sta generando sicuramente un impulso nella sottoscrizione di nuove carte, quindi nuovi contratti bancari, ma soprattutto tecnologicamente parlando stanno arrivando sul mercato molte applicazioni molto più smart che ci consentono pagamenti molto più veloci. Non è più un mondo che riguarda solo le giovani generazioni, ne parleremo diffusamente nella seconda parte del programma. Anche noi oggi poi avremo un ricordo del professor Alesina, l'economista scomparso nel weekend, e vi riproporremo un'intervista di qualche anno fa che sembra straordinariamente attuale, perché Sebastiano Barisoni si era confrontato con Alesina sul tema della crisi del debito sovrano, se non mi ricordo male eravamo nel 2012, quindi si faceva un po' un ragionamento sulla richiesta di aiuti in quel periodo che poteva essere ipotizzata per la Spagna, poi la Grecia e quant'altro. Si era fatto un punto della situazione sull'Italia, insomma disse delle cose interessanti, molto attuali anche in questo momento, quindi sarà il nostro modo per ricordarlo. Per tutti i commenti sui temi del giorno avete la consueta possibilità di farlo scrivendoci al 349-238-6666. Riceviamo i vostri sms, riceviamo i vostri messaggi su WhatsApp, e adesso direi che, cara Roberta, siamo pronti a partire. C'è un ascoltatore che scrive: eccola là, che non capisco se si riferisca a me perché sono tornato, se non lo so, si riferisse a qualche notizia. Le notizie in breve di oggi: le materie prime, il petrolio a New York è intorno ai $33.50, l'oro è a $1.725 l'oncia, quindi siamo un po' più o meno su quotazioni stabili rispetto a venerdì scorso. La Casa Bianca ha fatto sapere, e vabbè, le iniziative di Trump, tanto abbiamo a che fare con queste almeno 3 o 4 volte al giorno. Una delle ultime, la Casa Bianca ha deciso di sospendere gli ingressi negli Stati Uniti per i non americani che arrivano dal Brasile. Il presidente Trump ha deciso di proteggere il paese sospendendo, ha detto, gli ingressi di stranieri, lo ha detto la Casa Bianca in un annuncio ufficiale, sospendendo gli ingressi di stranieri che sono stati in Brasile nei 14 giorni precedenti al loro arrivo appunto negli USA. Al 23 maggio il Brasile ha 310.087 casi di Covid-19, si tratta del terzo numero più alto al mondo, ha spiegato la Casa Bianca, appunto motivando questa decisione restrittiva. Ricorderete l'ultima volta che io ho fatto Focus Economia, abbiamo raccontato delle iniziative che arrivavano dall'Europa, anche di questo nuovo asse franco-tedesco che era stato stabilito per cercare di mettere a terra tutto il tema del Recovery Fund, questo grande impianto di fondi europei destinato appunto al rilancio dell'economia post-Covid. A questo asse franco-tedesco, come ricorderete, avevamo anche raccontato di una controiniziativa di un gruppo di paesi europei guidati dall'Austria che aveva in qualche maniera espresso il proprio disappunto, il non allineamento rispetto all'iniziativa tra Francia e Germania. E allora c'è un commento oggi: la proposta di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sul Recovery Fund è lontana da quella del Parlamento europeo, non è adatta alle sfide future, senza un buon mix di sovvenzioni e prestiti non funzionerà. Chi lo ha detto? Otmar Karas, che è il vicepresidente austriaco del Parlamento europeo. In Austria Karas fa parte dello stesso partito del cancelliere Sebastian Kurz. I popolari appunto i popolari austriaci. Il programma che il governo austriaco ha messo in piedi, da miliardi di euro di sovvenzioni, dovrebbe servire da modello anche in Europa, ha scritto Karas, sottolineando che nel dibattito sul Recovery Fund lo spettro dell'Unione e dei debiti è stato nuovamente enfatizzato in modo assolutamente inutile. Karas si è anche sfilato dalla linea del governo austriaco dei quattro frugali anche sull'aumento dei contributi al bilancio UE. L'economia si sta contraendo, abbiamo bisogno di nuove entrate per far fronte alla ricostruzione. E quindi insomma magari Kurz dovrà affrontare anche un po' questa rogna interna in questo momento, date queste dichiarazioni pubbliche del suo compare di partito, ma che ha anche un'importante funzione europea. Ho appena concluso la riunione dei ministri degli affari europei del partito del PSE, discussione franca dove ho ribadito che i socialisti europei devono essere ambiziosi e non frugali. In gioco ci sono la tenuta del mercato unico e le prospettive del continente. Questo invece è quanto oggi ha scritto su Twitter il nostro ministro Enzo Amendola a proposito del Recovery Fund. Oggi sono arrivati alcuni dati dalla Germania, pessimi, ma per la verità uno è stato colto molto bene dal mercato ed è l'IFO tedesco, l'indice di fiducia, che è salito a maggio inaspettatamente a 79,5 punti. Il mese scorso aveva registrato 74,2 punti. Dopo la catastrofica caduta del mese precedente, a quanto pare il clima delle imprese si sta riprendendo, dicono gli economisti dell'istituto. A fronte di questo dato ne è arrivato un altro, il PIL del primo trimestre dell'anno è sceso del 2,2%, nello stesso periodo i consumi sono calati del 3,2%. Allora, all'Italia ci fa sempre discutere qua da noi, come sapete, ma anche in Germania non è che Lufthansa in questo periodo stia affrontando con grande serenità l'impatto del tracollo dei voli, dei viaggi, quindi il grande dramma delle compagnie aeree, che è sicuramente il settore più impattato dal Covid. Le trattative con Lufthansa sono arrivate alla fase finale, ma non sono ancora concluse, ha detto un portavoce del Ministero dell'Economia tedesca, rispondendo ad una domanda in una conferenza stampa a Berlino. C'è in ballo una sorta di salvataggio anche per la compagnia tedesca attraverso un fondo di stabilizzazione, ma al momento non si hanno ancora grandi dettagli. Novità sono arrivate invece per quello che riguarda appunto il famoso Dieselgate, il famoso scandalo appunto dei motori diesel. Volkswagen è stato reso noto appunto a Berlino, dovrà risarcire i suoi clienti secondo quanto ha deciso la Corte federale di Cassazione tedesca nell'ambito appunto del processo su questo noto caso che ha molto animato le cronache finanziarie lo scorso anno, forse anche due anni fa. I consumatori sono però obbligati a detrarre i chilometri percorsi dalla somma in denaro che riceveranno. Insomma, una modalità assolutamente interessante di essere indennizzati. Le notizie che abbiamo dall'Italia, ve ne do una veloce carrellata prima di andare al primo tema di oggi. Allora, alla data di ieri, domenica 24 maggio, le domande pervenute dalle banche al fondo di garanzia sono state 364.000 per 16,2 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui 399.000 fino a 25.000 euro per 6,8 miliardi di finanziamenti. Questo è il consueto punto della situazione fatto, come fa sempre nel fine settimana, dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che ha sottolineato in una nota che il mondo bancario ha continuato ad inviare domande di garanzia per prestiti a clienti anche sabato e domenica. Sappiamo bene che lo sforzo delle banche è enorme in questo momento, c'è grandissimo stress in questo ambiente, lo ha rilevato di nuovo anche in una intervista forse venerdì Nando Sileoni, il numero uno della FABI, il sindacato dei bancari per l'appunto, ricordando come effettivamente questo stress in questo momento si sia tramutando anche in azioni molto violente a volte da parte di clienti nei confronti degli operatori. Quindi mi raccomando, abbiate pazienza, sappiamo che il sistema bancario non è che abbia risposto proprio repentinissimamente, se così si può dire, so che già mi sgriderete per la parola utilizzata, le esigenze dei clienti, ma insomma siamo anche consapevoli della gravità della situazione. Un paio di notizie dalla velina del giorno da Barbara Bianchi, vediamo un po' che cosa mi ha portato. Allora sì, ecco qua l'iniziativa su Lufthansa, parlavamo prima appunto della mancanza di dettagli sull'utilizzo del fondo di stabilizzazione economica tedesco appunto per il salvataggio della compagnia di bandiera dalla Germania. A quanto pare il coordinamento del fondo ha approvato il pacchetto di aiuti per Lufthansa, aiuti previsti per 9 miliardi di euro, e questa è una notizia. E poi c'è un commento del ministro delle finanze tedesco tedesco Olaf Scholz, che ha annunciato che l'accordo con Lufthansa e gli aiuti di Stato, appunto, ha annunciato l'accordo con Lufthansa, questo aiuto di Stato, perché così lo chiamano senza alcun problema, da 9 miliardi di euro, definendo quella sul tavolo una soluzione molto positiva. Vedremo insomma domani se si faranno tutti i paragoni che già ci aspettiamo tra come è stata gestita la questione tedesca di Lufthansa e come da anni viene gestita invece quella di Alitalia. Allora, quale altra notizia vi posso raccontare? Alcune notizie che riguardano alcune società italiane importanti, anche se tra l'altro queste sicuramente le commenteremo fra un po' per l'impatto che hanno avuto sulla seduta di borsa. Allora, intanto oggi abbiamo appreso che Intesa San Paolo si accingerebbe a deliberare la concessione del prestito da 6,3 miliardi di euro a Fiat Chrysler. La circostanza, la vicenda potrebbe essere discussa nel corso di un consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo in programma per domani, e a questo punto poi ci saranno gli ulteriori passaggi previsti, perché è un impegno finanziario che coinvolge anche la garanzia di SACE e del governo, e poi ci saranno appunto anche questi inevitabili passaggi. E questo è un punto. C'è poi tutta la schermaglia politica che si è riaccesa di nuovo in maniera molto prepotente nelle ultime ore su Atlantia, l'ex autostrada, che peraltro in borsa, poi ne parleremo stamattina, era partita con un rovescio del 5% per poi recuperare tutto. Adesso siamo in risalita ed è positivo il titolo di mezzo punto percentuale. Si sta cominciando a muovere la macchina che porterà ad un tavolo dove ci dovremo necessariamente confrontare. Sbaglia chi dice Cancellieri contro il ministro De Micheli. Assolutamente no, io ho voluto semplicemente porre l'accento su una questione. C'è una forza politica che è di maggioranza relativa all'interno della compagine di governo, il Movimento 5 Stelle, che non ha ancora letto il dossier di cui si parla da settimane. Siccome le domande si facevano sempre più incalzanti, mi è sembrato il caso di chiarire che noi non fossimo in possesso di alcun dossier. Chi l'ha detto tutto questo a Sky? Il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancellieri, secondo quanto ha riferito un comunicato. Non c'è nessuna polemica, c'è semplicemente dialettica all'interno di una compagine di governo che fede al suo interno forze politiche molto diverse fra di loro. Insomma, questo è tutto l'ennesimo strascico politico, dicevamo, sulla gestione in queste ore, anche in questo caso, di un prestito chiesto da Atlantia, ma che naturalmente il Movimento 5 Stelle vede con il fumo agli occhi, perché in realtà sapete che c'è in ballo da parte di questo partito la richiesta di una revoca della concessione, e tutto questo è la vicenda che ci portiamo dietro dopo il crollo del ponte Morandi. Ne continueremo sicuramente a leggere nei prossimi giorni, ma è già tardissimo direi di andare subito al primo tema di quest'oggi. Allora, non vorrei essere poco carina e poco ospitale con il nostro ospite di oggi, parto però con una battuta che mi passerà sicuramente. Non scopriamo l'acqua calda se ci rendiamo conto, e ce lo racconta l'ennesimo sondaggio, che gli italiani sono in questo momento molto preoccupati per questa imponente recessione economica che sta arrivando. I numeri già ce lo raccontano, con un calo del PIL italiano impressionante, già decretato, già individuato da molti studi in prospettiva. Una crisi drammatica che riguarda non solo noi, coinvolge tutto il mondo, e quindi anche per questo è ancora più drammatica, perché magari non ci sarà nessun'altra economia in grado di sostenerci. Gli italiani sono preoccupati per questo, ma spaventa moltissimo anche la necessità di modificare le proprie abitudini di vita rispetto alla vita che avevamo prima del Covid. Buonasera Mauro Losetti, presidente di Lega Coop. Presidente, buonasera e grazie. Buonasera a lei ai radioascoltatori. E allora, questa fotografia, Presidente, l'avete scattata voi, avete deciso di farlo commissionando questa indagine ad SVG. Allora, ci racconta lei qualche altro dettaglio in più? Io dicevo, è chiaro, non si scopre l'acqua calda se si racconta che siamo tutti molto angosciati dal fatto della crisi economica che arriverà, e chi ha mantenuto il posto di lavoro già si considera un miracolato in questa fase. Che cos'altro avete scoperto, Presidente? Sì, noi settimanalmente misuriamo una serie di elementi presso l'opinione pubblica. Questa settimana abbiamo voluto dare una dimensione al timore, alla paura, che era, come dice lei, l'acqua calda, però avere la consapevolezza della dimensione è già un elemento maggiore. Rispetto a qualche settimana fa il timore è cambiato. Prima c'era una prevalenza del timore della pandemia e del contagio, oggi questo è diminuito, pur essendo ancora in una dimensione molto importante, e ha preso piede la preoccupazione giusta della crisi economica. Ci sono una serie di mantra che si dicevano prima, si continuano a dire: tutto andrà per il meglio, niente sarà come prima. Ecco, bisogna avere la consapevolezza che i prossimi mesi saranno mesi durissimi. Saranno mesi durissimi, e questo impone ad ognuno di noi una consapevolezza, che è quella di ragionare su se stessi in chiave di riposizionamento strategico, fare tutto il possibile, tutto quello che dipende esclusivamente da noi come organizzazioni e come imprese, chiedere allo Stato di fare degli interventi che siano mirati, che abbiano una caratteristica, un connotato, che non siano in chiave emergenziale, ma che in una qualche misura anticipino anche un disegno di un paese, di un'economia che abbia come riferimento la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e delle persone. Infatti voi avete già elaborato una sorta di ricetta della ripartenza, lei lo ha fatto proprio pochi giorni fa, e oltre, come dire, tra l'altro al settore di cui parleremo fra un po' nel nostro programma, l'ambito digitale, c'è anche un po' la finanza che potrà aiutare, poi ci dirà in che modalità, Presidente. Però io le volevo chiedere, devo dire che in questa fase in cui si sono susseguiti uno dietro l'altro tutti i provvedimenti del governo per cercare di dare quanto prima possibile ammortizzatori sociali alle persone rimaste senza lavoro, sostegni alle imprese per garantire la liquidità, insomma si è intervenuto veramente non a 360 gradi, a 2 milioni di gradi per accontentare tutti. Voi avete parlato molto poco, mi pare, oppure mi sono persa io qualche cosa? Non vi siete lamentati? Vi ritenete sostenuti abbastanza dal governo, oppure non avete chiesto niente, siete andati avanti con le vostre forze? Perché non so se ho perso io qualche pezzo, ma mi pare che abbiate tenuto un profilo molto contenuto. No, il nostro profilo è un profilo di gente che ha innanzitutto come riferimento il benessere delle proprie persone e delle proprie comunità, quindi la prima cosa di cui noi ci siamo preoccupati è stata questa, cioè quella di metterci nelle condizioni di essere utili alle comunità all'interno delle quali le nostre cooperative lavorano. Tenga presente che in questo periodo le nostre cooperative hanno versato in solidarietà più di 36 milioni di euro alla protezione civile e al sistema sanitario, hanno messo a disposizione alberghi per la degenza dei malati guariti da Covid, abbiamo messo a disposizione milioni di euro di supporti di protezione individuale, abbiamo fatto una quantità incredibile di solidarietà al punto tale che sempre in uno di questi sondaggi il favore dell'opinione pubblica è oltre il 60%. Questo è quello che abbiamo fatto oggi. Quello che noi chiediamo al governo oggi, una volta che abbiamo dimostrato noi stessi di metterci in discussione, di cercare di rivedere la nostra attività, è quello di mettere nelle condizioni la quantità incredibile di denaro stanziato di arrivare in tempi molto più rapidi alle famiglie, alle persone, ai lavoratori e alle imprese. Noi non siamo abituati a urlare, però siamo determinati in questa questione, quindi in tutte le occasioni che abbiamo avuto di interloquire con le istituzioni, questi elementi li abbiamo messi in evidenza. Abbiamo anche dato, per non avere una dimensione esclusivamente rivendicativa, consegnato al Presidente Conte un documento che si intitola Ricostruire l'Italia cooperando, all'interno del quale c'è la nostra visione, e ciò che chiediamo sono tasselli della visione di una società futura dove l'economia, le persone, l'ambiente sono in armonia. Quindi questo è il nostro modo di agire, vogliamo agire con i fatti, chiediamo dopo aver dimostrato quello che possiamo fare per il Paese, e quindi in questo senso possiamo sembrare poco evidenti perché non urliamo, ma ci siamo presenti. Presidente, in tutto questo però, pur nello spirito costruttivo che naturalmente è necessario in questo momento avere un approccio di questo genere per dare un segnale un po' a tutti, quantomeno a quelli che ricadono sotto la vostra cappa di azione, questo non significa che per voi la crisi non sia arrivata. Dove ha colpito in maniera particolare, dove siete stati più in difficoltà, anche se riconosciamo che per esempio le vostre cooperative operano nel settore dei servizi alla persona, nel settore delle pulizie, quindi magari in certi comparti è andata anche bene, avete lavorato forse di più, ma sicuramente qualche settore avrà sofferto anche nel vostro mondo. Dove in particolare? Noi abbiamo avuto, durante il lockdown, abbiamo avuto grosso modo, come il resto del paese, metà delle nostre cooperative che hanno continuato a lavorare perché lavoravano nelle filiere dell'emergenza o addirittura nei luoghi della sofferenza, quindi ospedali e case di cura. L'altra metà invece è rimasta bloccata. Oggi siamo ripartiti. Della parte bloccata, quelli che hanno sofferto nettamente di più sono la cooperazione di ristorazione che ha lavorato nella cooperative di servizio che lavorano nell'ambito della scuola, che sono state completamente bloccate nella loro attività. C'è tutta la cooperazione culturale e turistica che è stata letteralmente massacrata perché viveva sulla promozione di eventi dove il contatto fisico e la quantità di persone determinano il successo degli stessi eventi, e quindi il distanziamento sociale ha bloccato definitivamente questa attività. Abbiamo alcune filiere dell'agroalimentare, come quella del vino, che è in pesante difficoltà, altre filiere dell'agroalimentare invece che funzionano molto bene, e quindi i settori dove abbiamo sofferto molto di più sono questi qua. C'è un pezzo della cooperazione sociale che è fondamentale per sostenere servizi a supporto delle persone più fragili e deboli, donne, bambini, categorie emarginate, che oggi sono ferme perché i comuni non attivano servizi alternativi. Una delle cose che chiediamo con grande forza al governo è quello di mettere a disposizione dei comuni una parte di quelle risorse che hanno stanziato per pagare i fornitori dei comuni stessi. Tante cooperative e imprese non avrebbero bisogno di indebitarsi se i comuni avessero una regolarità di pagamento. Questo è un elemento fondamentale, perché i debiti, lei insegna, che hanno una caratteristica, che a un certo punto devono essere restituiti. Certo. E quindi se abbiamo una situazione nella quale ciò che vantiamo in termini di credito si viene pagato, non abbiamo bisogno di liquidità. Quindi in questo senso l'azione del governo deve essere più determinata e più indirizzata. Più seria, più corretta, perché sappiamo che il settore pubblico è stato il primo. Patrimoniale, non all'indebitamento, perché altrimenti spostiamo in avanti di qualche mese il problema. Presidente Lusetti, io la ringrazio per essere stato con noi. No, c'era un ultimo aspetto che mi interessava. In tutta questa situazione di grande responsabilità che avete avuto, senza fare grandi polemiche sulle azioni appunto messe in campo, comunque un tema lo avete riconosciuto: tutto sommato il sistema cooperativo, che ha con grande forza gestito questi mesi durissimi, e però deve comunque crescere. E sappiamo appunto che il tema della gestione finanziaria delle vostre aziende è ancora un vostro piccolo nervo scoperto. Questa potrebbe essere l'occasione buona per insegnare a lavorare meglio alle piccole cooperative, appunto, da questo punto di vista? Noi abbiamo messo in piedi ormai da tempo, da alcune settimane, un'azione di formazione, di acculturamento, diciamo così, di cultura sul tema della cultura finanziaria e sulla transizione digitale, che sono i due elementi fondamentali per poter immaginarsi ancora competitivi nel mondo che verrà post-Covid. Quindi due elementi fondamentali di crescita del nostro modo di fare impresa è quello, dicevo, della cultura finanziaria e della transizione digitale. Sono due punti di forza dei piani di attività e di lavoro che già sono in atto sulle nostre migliaia di cooperative. Guardi, sono molto brava e non le chiedo niente sul tema della regolarizzazione degli immigrati, perché qua apriremo un altro comparto, ma so che voi insomma avete molto da dire anche su questo. Ce lo ricaviamo in un'altra giornata. Posso solo dire che nelle nostre cooperative il rispetto dei diritti dei lavoratori italiani e migranti è un elemento di forza e di qualità del nostro essere cooperativo. Ce l'avete detto sempre, Presidente. Ci ritorneremo su questo tema, che è molto delicato. Buttarlo via così ci dispiace. Grazie a Mauro Lusetti, presidente di Lega Coop. Noi ci fermiamo, la pausa, e poi andiamo a cercare di capire cosa è successo oggi a Taranto con Ilva. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi era prevista questa giornata di confronto tra il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ministro del lavoro Nunzia Catalfo, i dirigenti di ArcelorMittal, i commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali. Pronta la risposta rispetto all'esito di questo confronto, sciopero di tutti i dipendenti. Cosa è successo? Perché dopo tanto tempo dobbiamo tornare a parlare di Ilva da Taranto? Domenico Palmiotti, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah, buonasera. Allora, oggi sì, c'era un tagliando, diciamo, dell'accordo di marzo, se non mi ricordo male, se non ho capito male. Più che un tagliando, diciamo, c'era una verifica della situazione, perché in queste ultime settimane ArcelorMittal ha fermato produzioni, impianti, ha aumentato considerevolmente la cassa integrazione e i sindacati, che già giorni fa avevano fatto presidi di protesta a Taranto, Genova e Novi Ligure e oggi appunto hanno scioperato, avevano chiesto l'intervento del governo per vedere a che punto si fosse arrivati e cosa c'era all'orizzonte. Ci si attendeva una rottura, ci si attendeva uno strappo, l'annuncio che Mittal andava via. Invece c'è una piccola tregua, c'è una tregua di 10 giorni, che è il tempo necessario che ArcelorMittal ha chiesto per presentare il piano industriale della nuova Ilva. L'amministratore delegato Lucia Morselli, che era in call conference con i sindacati, con la proprietà Ilva, con i ministri Gualtieri, Patuanelli e Catalfo, ha detto che Mittal non vuole andare via, che Mittal appunto vuole ancora continuare a fare di Ilva una grande azienda, e il ministro Gualtieri ha ribadito la disponibilità dello Stato a coinvestire insieme al privato, che è appunto Mittal, ma ha anche ricordato che l'obiettivo deve essere quello di salvare tra l'altro l'occupazione. Gualtieri ha proprio ricordato il numero degli attuali occupati di Ilva, 10.700, anche se adesso moltissimi sono in cassa integrazione. Questo, all'aver indicato questo numero da parte di Gualtieri, anche è stato un volere esplicitare, no? Un paletto della trattativa da cui il governo non intende derogare. Adesso bisognerà vedere nel nuovo piano industriale che Mittal presenterà fra 10 giorni che cosa ci sarà, che tipo di produzioni, che tipo di assetto e soprattutto che cosa avverrà dell'occupazione. I sindacati, i loro giudizi non sembrano molto convinti, per esempio delle parole di Gualtieri proprio, no? Di questo esercizio di una golden power in Ilva, ma non si sono molto convinti da questa manifestazione di intenti. No, perché diciamo si va da posizioni molto dure come l'USB e la FIOM CGL, che chiedono rispettivamente che lo Stato riprenda il pieno controllo dell'azienda e quindi la tolga Mittal, la FIOM che dice che il tempo è abbondantemente scaduto, poi c'è la FIM che è CISL, che invece chiede che l'azienda, se è vero che vuole rilanciare l'Ilva, deve dare dei segnali coerenti e di affidabilità. Infine c'è la WILM, che si mostra scettica su quanto si è dichiarata oggi e chiede invece leggi speciali perché si venga incontro ai lavoratori, e quindi se ci devono essere esuberi almeno li si attenuino con delle misure di protezione sociale. Sono così un po' incuriosita dal fatto che siano stati scelti 10 giorni di tempo adesso per mettere a terra il piano industriale. Evidentemente non sarà un documento da elaborare ex novo, è ovvio che si lavorerà intorno a qualcosa di già pronto, ma mi chiedo in 10 giorni che miracoli potranno essere fatti. Perché è stato scelto questo lasso di tempo, Domenico? Adesso non so se è una domanda intelligente, però mi sembra, cioè, o uno per fare una cosa seria per una situazione come quella si ripigliano altri 6 mesi, oppure 10 giorni cosa mi significano? Ecco, probabilmente 10 giorni sono un tempo veramente minimo, direi nullo, se consideriamo che solo per raggiungere un preaccordo legale che poi doveva svilupparsi in una serie di trattative, bene, ArcelorMittal, Ilva e rispettivi avvocati hanno impiegato diversi mesi, novembre, dicembre, gennaio e febbraio e marzo, perché poi l'accordo l'hanno chiuso 4 marzo, quindi ben 5 mesi per fare un preaccordo legale. Poi sarebbe dovuta partire la trattativa, che doveva vedere proprio a maggio, in questo mese, la presentazione del piano industriale. Invece Mittal il piano industriale non l'ha presentato perché c'è stato il coronavirus, ci sono stati vari problemi, in più non ha nemmeno pagato l'ultima rata trimestrale del fitto a Ilva, benché la rata con l'accordo di marzo ultimo fosse stata anche dimezzata rispetto ai 45 milioni di partenza. Adesso invece dice di poter presentare questo piano in 10 giorni. Certo, questo è il punto che desta molte perplessità. L'amministratore delegato ha detto che la situazione cambia ogni 24 ore. Se veramente cambia ogni 24 ore, beh, non credo che in 10 giorni si possa mettere su un piano che sia davvero e sia credibile. Comunque attendiamo, se sono 10 giorni, ormai diciamo di tempo ne manca poco per andare a vedere quali sono le vere carte di ArcelorMittal e cosa ne sarà di questa intricata, complicatissima vicenda che è cominciata molti anni fa, a luglio del 2012. Ma con lo Stato che si gioca la carta dell'intervento come promesso da Gualtieri, secondo te che tipo di disponibilità si apre da parte dell'azienda? Beh, la disponibilità dello Stato era già faceva parte dell'accordo, sì, di marzo scorso, perché Mittal ha accettato di fare un passo indietro rispetto alla rescissione del contratto che aveva dichiarato a novembre, a fronte dell'impegno dello Stato che sarebbe entrato nella compagine societaria, avrebbe fatto tutta una serie di operazioni. Poi in queste ultime settimane, vedendo che Mittal, come ha detto Patuanelli qualche tempo fa, dava segnali di disimpegno, lo Stato ha anche pensato ad una maggiore presenza. Oggi c'è stato l'incontro in cui Mittal ha detto: io non voglio andare via, voglio investire, e lo Stato attraverso Gualtieri ha ribadito la disponibilità a coinvestire. Va anche detto che all'interno del governo ci sono linee anche un po' diverse e diverse sensibilità. Il ministro Gualtieri viene attribuito un po' più vicino all'azienda, ma nel senso che vuole che Mittal resti e si faccia questa operazione congiunta Stato e ArcelorMittal, ecco, vicinanza in questo senso. Invece c'è un'altra ala, il ministro Patuanelli, che vorrebbe chiudere con ArcelorMittal, voltare pagina e iniziare un nuovo corso. Comunque, tra 10 giorni vedremo. Eh sì, infatti, vedremo quali altre scuse troveranno per arrestare di nuovo il processo di ripartenza di quest'area così importante. Grazie a Domenico Palmiotti, buona serata. Il traffico, torniamo tra poco. Focus Economia. Come on. Cominciano ad apparire scontrini fiscali con contributo Covid-19 con IVA al 22% normale. Stefano, il grande allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori, lo dico a questo ascoltatore da Ferrara che ci ha scritto un sms. Se va a guardare sul sito del Sole 24 proprio il tema che appare in home page, perché ne siamo perfettamente consapevoli. Io devo dirvi che, per quanto possa essere impopolare quello che esprimo in questo momento, non mi sento neanche di biasimare tutte quelle attività commerciali che sono veramente in ginocchio, che sono state chiuse per 2 mesi abbondanti, 3 che stanno ripartendo con il contagocce, che non ritorneranno prima probabilmente di anni ad una normalità piena. Per cui cosa vi devo dire? Come facciamo a condannare pure questi qua? Non tutti, dico, ma almeno meno tanti. Vabbè, andiamo alla giornata di borsa, che si è chiusa in maniera molto molto positiva. Più 2,87% per Francoforte, Parigi più 2,15% e Milano un pochino più timida, rimane indietro ma guadagna tuttavia sul finale l'1,61%. Stefania Arcudi, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ah beh, proprio uno scatto d'orgoglio nei confronti degli Stati Uniti. L'Europa oggi ha detto: sai che ti dico, non mi interessa se loro non ci sono, se sono in festa, andiamo avanti per conto nostro e brindiamo a questa partenza. Andrei, siccome abbiamo pochi minuti, Stefania, subito ai temi del giorno di Piazza Affari, cominciando con i gruppi che si sono comportati bene. Vedo oggi un buon andamento per il grande, per l'industria pesante, Leonardo, Finmeccanica, CNH Industrial. Sì, infatti sono stati migliori gli industriali e più in generale, quindi anche le costruzioni, i trasporti, eccetera, sono stati i migliori in tutta Europa, che l'indice di settore in Europa ha guadagnato il 2%, molto di più dei movimenti standard, insomma, per gli indici europei. Leonardo, Piazza Affari, è stata la migliore, come dicevi, ha guadagnato quasi il 6%, appunto, ha fatto bene soprattutto l'indice IFOS del tedesco sulla fiducia delle imprese, che nel mese di maggio è stato sopra le attese, è cresciuto appunto a sorpresa rispetto al dato di aprile, diciamo, questo ha dato un incoraggiamento al comparto in tutta Europa, che ricordiamo nelle settimane precedenti era stato messo sotto forte pressione. Infatti. Vero è che i volumi non erano particolarmente elevati quest'oggi, complice appunto la chiusura di Wall Street, come dicevi tu, per il Memorial anche Day, di Londra, anche sì. Londra era chiusa per Bank Holiday, quindi insomma volumi non particolarmente elevati. Ciò nonostante, Leonardo ha risollevato la testa rispetto ai cali visti sia la settimana scorsa, quando Fitch aveva abbassato l'outlook, ma ancora di più rispetto a marzo, rispetto ai valori di marzo, perde il 30%, il 50% addirittura se andiamo più indietro a febbraio. Quindi diciamo che Leonardo, ma così tutto il settore industriale, aspetta la ripresa e guarda quindi con fiducia, in certa misura con ottimismo, alla ripartenza, alle esatto, anche se purtroppo questa fiducia non la possono mettere nero su bianco. Ricordiamo che presentando le trimestrali in queste ultime settimane quasi tutte le società non hanno potuto dare il cosiddetto outlook, la guidance, anzi si chiama in gergo finanziario, non hanno potuto dire quello che stimano possa essere la crescita in termini di fatturato, ricavi, tutte le voci di bilancio sostanzialmente per tutte c'è stata la sospensione della diffusione di queste voci. Amplifon più 4,87, sono andate bene le utility, le grandi, Era del Nord, A2A ed Era, che sono state in rialzo del 3,6%. È stata una giornata di nuovo sotto i riflettori per Fiat Chrysler, perché pare che domani Intesa San Paolo abbia all'ordine del giorno del proprio consiglio di amministrazione il prestitone. Esatto, il prestito da 6,3 miliardi di euro che tanto ha fatto discutere la settimana scorsa, e la settimana scorsa il titolo aveva particolarmente risentito della vicenda, aveva perso anche il 4%. Adesso sembra che si arrivi insomma un dunque. Domani il CDA di Intesa San Paolo potrebbe dare via libera appunto al prestito, ma poi resta comunque diciamo così soggetto all'iter per l'ottenimento della garanzia statale, che deve passare per SACE dal Ministero dell'Economia. Quindi insomma anche se domani arrivasse, come dicono indiscrezioni di stampa, il via libera del CDA d'Intesa, comunque l'iter non sarebbe concluso. Mm-hmm. Appunto il governo aveva chiesto delle garanzie per poter appunto garantire a sua volta il prestito, tra cui appunto ricordiamo il mantenimento dei livelli occupazionali, il blocco delle localizzazioni, esatto, e poi tutta la questione della sede fiscale, bla bla, esatto. Allora, la fotografia di oggi ci rilascia anche un'evidente rotazione settoriale, perché in una giornata in cui si è favorito il comparto dell'industria pesante, dicevamo l'automotive, l'aeronautica e anche il settore delle utility, ovviamente si è lasciato un po' indietro il comparto bancario, che hanno chiuso con delle prestazioni appunto gran parte positive, ma inferiori rispetto ai titoli che ovviamente sono andati meglio. E peraltro oggi lo spread non è stato di disturbo. Un minuto, Stefania, per l'ultimo commento su questo. Appunto, in realtà per il settore bancario è stata un po' una presa di beneficio rispetto all'ottima performance della settimana scorsa. Come dicevi anche tu, lo spread oggi non ha disturbato, anzi è calato, era a 214 punti venerdì, oggi ha chiuso a 211, quindi appunto non ha interferito. Appunto si è trattato più di prese di beneficio, le banche erano andate bene la settimana scorsa. Certo, c'è il tema dei dividendi che sono stati cancellati. Oggi la BCE appunto ha certificato che sono stati cancellati i dividendi per 30 miliardi di euro, come peraltro appunto da richieste delle autorità. Grazie a Stefania Arcudi per essere stata con noi. Stefania, con una puntualità svizzera terminiamo questo primo blocco, il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Buonasera a tutti da Deborah Roscendi e bentrovati a Focus Economia. È chiaro che mi sarei scatenata addosso le polemiche per il commento fatto poco fa quando una... Allora, aspetti un attimo, ma mi sta dicendo un ascoltatore che ho sbagliato la chiusura di borsa. No, il FTSE MIB fa più 1,61%. Io adesso spero che qua non sia andata in tilt la piattaforma, ma non mi risulta, quindi non so che cos'altro veda l'ascoltatore. E adesso insomma vedrò un po' meglio, ma non credo. E poi no, l'ascoltatore di prima che diceva di aver notato appunto il famoso contributo Covid negli scontrini fiscali di qualche negozio, se ne sta già parlando molto, c'è già una presa di posizione molto importante, molto forte da parte di molte associazioni dei consumatori. Io non ho detto che fanno bene a fare quello che fanno, vabbè, intanto se compare sullo scontrino fiscale mi sembra già molto. Non dico di condannare chi ha applicato questi sovrapprezzi evidentemente ai propri beni in vendita, dico che non mi sento neanche di biasimare molti commercianti che in questo periodo hanno azzerato totalmente il proprio fatturato, e anche quelli che sono ripartiti riprendono al rallentatore. Sapete come bisogna entrare in un negozio, sapete le regole del distanziamento. Io oggi per la prima volta, credo da febbraio, stamattina sono andata con Mauro Meazza a prendere un caffè al bar qui vicino al Sole 24 Ore. Siamo dovuti stare da soli nel locale per i 5 minuti in cui abbiamo preso il caffè, distanziati da un tavolo con poche persone fuori, ed era un bar estremamente frequentato, quello nella fase pre-Covid. Quindi cosa vi devo dire? Se invece di pagarlo 1,10 euro io da ora in avanti lo dovessi pagare 1,20 euro o 1,30 euro, non è che mi faccia piacere, ma non mi sento neanche di condannare totalmente la persona che in questo momento cerca di recuperare un po' del terreno perso nelle settimane scorse. Cosa vi devo dire? Scateneremo una polemica, magari domani Sebastiano dirà la cosa esattamente contraria. Per fortuna abbiamo ancora un pochino di libertà di pensiero, e aveva molta libertà di pensiero Alberto Alesina, drammaticamente scomparso sabato negli Stati Uniti, tra venerdì e sabato. È morto a 63 anni, uno degli economisti italiani più noti al mondo, più prestigiosi. Era noto anche, ma non faceva tantissime apparizioni, ma insomma vi sarà capitato qualche volta di seguirlo anche sui grandi network televisivi. Era soprattutto un editorialista per la stampa italiana, per il Sole 24 Ore, ma soprattutto era noto per firmare insieme a Francesco Giavazzi molti editoriali appunto per il Corriere della Sera. Era nato a Pavia, è stato professore di economia all'Università di Harvard, ha anche diretto il Dipartimento Economico dal 2003 al 2006, è stato visiting professor all'Università Bocconi di Milano, e proprio la Bocconi si era laureato nel 1981. Sostenitore di una austerità cosiddetta espansiva per affrontare i periodi di emergenza e a sostegno della crescita, che puntasse su tagli selettivi della spesa e non sull'aumento di tasse, questo è stato una sua grande lezione appunto, sulla quale amava soffermarsi molto spesso. Ha indicato anche la via da seguire più nelle grandi riforme e liberalizzazioni piuttosto che nel ricorso all'investimento per le grandi opere. Era aveva, durante appunto la crisi dello spread, aveva scritto un decalogo per sostenere l'economia attraverso lo sblocco del mercato del lavoro con l'introduzione di contratti unici, la sostituzione della cassa integrazione con sussidi di disoccupazione temporanei, probabilmente nella modalità americana che lui conosceva molto bene. Insomma, potrei parlarvi tanto della sua biografia, ma gli appassionati magari andranno a ricostruirla, perché in questi giorni, insomma, sui giornali hanno scritto in parecchi di lui, anche questa mattina sulle Corriere della Sera, e noi abbiamo voluto oggi ricordarlo isolando un estratto di un'intervista che aveva rilasciato a Focus Economia il 21 agosto del 2012. Era l'estate del Whatever It Takes di Mario Draghi. Allora, come oggi, il tema era se chiedere o meno aiuti all'Europa. In quei giorni di 8 anni fa, sembra ieri, ma già sono passati 8 anni, il ministro spagnolo dell'economia aveva confermato che la Spagna avrebbe chiesto un prestito alle istituzioni europee per sostenere il suo settore bancario in grande difficoltà. La cifra di cui si parlava era intorno ai 100 miliardi di euro. E allora Sebastiano Baresoni gli chiese, ovviamente, anche l'Italia dovrà chiedere aiuto. Sentiamo che cosa risponde in questa piccola parte di questa intervista, appunto, che abbiamo estratto da quella puntata di Focus Economia. Se l'Italia per qualche motivo non dovesse farcela da solo, non sarebbe un dramma nazionale o una cosa catastrofica chiedere aiuti. E ho aggiunto, se questi aiuti fossero arrivassero come dovrebbero, con delle forti garanzie su quello che l'Italia dovrà fare in termini di crescita e rigore, potrebbero essere non uno sbracamento, ma una forma di controllo, di incentivo per il prossimo governo. Certo che se gli aiuti arrivano senza nessuna, e non arriverebbero, ma se dovessero arrivare senza delle forti garanzie su quello che l'Italia deve fare, allora avrebbe ragione lei, cioè che consentirebbe al prossimo governo di non fare nulla. Quindi tornare a spendere. Il punto cruciale è che poi appunto, che fanno anche appunto i tedeschi, è che se questi aiuti a questo o quel paese dovessero arrivare, devono arrivare con delle garanzie politiche di controllo europeo sulla politica fiscale nazionale. Quindi questo controllo europeo, se funzionasse, potrebbe essere un buon modo per costringere il prossimo governo a non sbracare, come dice lei. Ecco, visto che ne stiamo parlando, questa è una settimana cruciale per la Grecia, ma in generale sentiamo un tintinnar non di sciabole, ma insomma di fioretto in Germania. Si spacca anche la politica tedesca, c'è chi è più pronto a difendere la BCE di Mario Draghi, chi l'attacca praticamente ogni giorno, c'è la Bundesbank che l'ha presa di mira. Venerdì arriverà il premier greco Samaras a incontrare Angela Merkel e chiederà di avere più tempo per fare l'austerity. Secondo lei questa partita come andrà a finire? Perché è indubbio che la Germania in questo momento abbia dei grandissimi vantaggi della situazione, ne abbiamo raccontato molte volte, però la sensazione è che in Germania tutti pensano di stare pagando troppo per questa crisi e nessuno guarda i vantaggi che ne hanno i tedeschi. Sì, lei tutte le volte che mi intervista continua a parlare dei grandi vantaggi della Germania di questa crisi, e sono un po' stanco di sentirglielo dire, perché sinceramente la Germania certi vantaggi li ha, ma i vantaggi se li ha guadagnati con 10 anni di riforme eccetera. L'Italia poteva essere al posto della Germania e non c'è. Quindi se la Germania ne trae vantaggio è perché hanno fatto delle cose che gli altri paesi non hanno fatto, prima di tutto. Certo, la Germania ha dei vantaggi perché ha dei tassi di interesse bassi, eccetera, eccetera. Sono vantaggi che si è conquistato, appunto, a capo. Quindi non è inutile continuare a sparare sulla Germania. Per quanto riguarda la Germania, è vero che c'è una dialettica interna molto forte. Angela Merkel rappresenta forse la parte più meno aggressiva, se vogliamo, della Unione Pubblica Tedesca. Io ero in Germania qualche giorno fa, mi hanno intervistato dei giornali tedeschi e la mia impressione delle domande che mi facevano è che una buona parte dei tedeschi pensano che tutte le volte che Angela Merkel va a questi meeting torni a casa sconfitta, mentre noi abbiamo la sensazione opposta, che torniamo a casa noi sconfitti. Quindi questa differenza di percezione credo che sia abbastanza grave. Detto questo, al di là di tutte le discussioni tecniche, Bundesbank eccetera, si sta sempre parlando di quanti soldi debba tirare fuori un paese per salvarne un altro. Quindi alla fine della fiera, al di là di tutte le complicazioni tecniche, è questo il problema. aggiungerei anche che se io fossi la Bundesbank, la BCE di Mario Draghi e tutti quelli, parlerei molto meno. Secondo me ci sono troppe dichiarazioni, correzioni di dichiarazione, controcorrezioni, che non fanno altro che creare confusione. Io credo che questi politici e banchieri debbano parlare all'unisono quando hanno raggiunto un accordo. È inutile che parlino a titolo più o meno personale, creando poi confusione. E così abbiamo voluto ricordare anche noi Alberto Alesina, il grande economista prematuramente scomparso qualche giorno fa negli Stati Uniti. Questa era un'intervista che aveva rilasciato a Focus Economia il 21 agosto del 2012. Ci fermiamo e poi parliamo di un altro tema molto divisivo che ha già cominciato a scatenarvi, come sempre succede. Paghiamo o no con la carta di credito? A tra poco. Focus Economia. Allora, l'ultimo tema che abbiamo scelto per questa sera. Sappiamo bene come siano cambiate e chissà quanto cambieranno ancora le nostre abitudini di consumo, quanto sono cambiate in questi mesi di chiusura delle attività economico-produttive, di chiusura di noi stessi all'interno delle nostre case. Quindi abbiamo cominciato a fare la spesa diversamente, ad acquistare beni e servizi diversamente, e anche l'irriducibile del contante, molte delle persone irriducibili del contante si sono dovute convertire alla moneta elettronica. Se volevate fare la spesa con l'S lunga o con altre grandi insegne della grande distribuzione, a meno che di fare le consuete file lunghissime, insomma, in molti hanno fatto la spesa online e quindi si deve pagare con la carta. E allora tutto questo ci porta a dire che effettivamente si sta fotografando un fenomeno in enorme crescita. Tutto questo in un contesto in cui arriveranno dei cambiamenti a partire dal 1 luglio, decretati da iniziative di governo degli anni passati. Dal 1 luglio scattano limiti più stringenti all'uso del contante, e in una fase in cui anche l'innovazione tecnologica dei sistemi di pagamento ha intrapreso una strada di novità molto, molto decisa, molto, molto interessante. Allora, volevo raccontare un po' di quello che sta succedendo con intanto Davide Colombo del Sole 24 Ore, che per una volta tanto non è costretta a parlare di pensioni o questi argomenti, ma oggi lo interpelliamo per qualcosa di più divertente. Davide, buonasera. Buonasera Debora, è un piacere parlare di cose diverse dalle pensioni. Esatto, hai visto. E poi abbiamo interpellato anche Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, che è un grandissimo osservatorio sulla moneta digitale, diciamola un po' così. Dottoressa Portale, buonasera. E anche voi sicuramente ci potete portare stasera delle evidenze rispetto a quello che è successo in questi mesi. Magari non abbiamo ancora dei dati stabili, ufficiali, osservatori definiti di questi mesi di isolamento e distanziamento sociale, ma in ogni caso qual è il sentore di come stanno cambiando gli italiani nell'approccio al pagamento di beni e servizi? Esploderà l'utilizzo della carta di credito, dottoressa Portale, e anche delle nuove applicazioni sui nostri dispositivi telefonici? Probabilmente, come dire, vivranno una fase di esplosione sia dal punto di vista dell'innovazione ma anche dal punto di vista dell'utilizzo. Cosa sta succedendo? Allora, sicuramente questa fase che abbiamo vissuto avrà un effetto anche sul tema dei pagamenti digitali. Ricordiamoci che anche l'OMS aveva dichiarato quanto il contante potesse essere rischioso per il portare virus in circolazione. Sicuramente abbiamo tre elementi che abbiamo constatato in questo periodo. Da un lato, in questo periodo sicuramente i consumi hanno risentito, quindi c'è stato da un lato un calo complessivo dei consumi, perché molti meno persone uscivano, andavano fuori e dicendo, quindi c'erano meno occasioni di pagamento. E le occasioni di pagamento però sono state molto più spesso da remoto, online, e online inevitabilmente devo utilizzare strumenti di pagamenti digitali per definizione, dalle carte ai wallet e via dicendo. E anche quando mi recavo in negozio, i consumatori sembravano preferire il pagamento con carta rispetto al pagamento in contante. Quindi questi tre effetti stanno portando sicuramente, da un lato, purtroppo a una riduzione della base su cui si va a fare il calcolo, però sicuramente a un'erosione del pagamento con le carte rispetto al contante, che sta invece un pochettino soffrendo. Dottoressa Portale, nel nostro paese convivono un po' due anime che sono costantemente in conflitto. Da una parte, lo dicevo prima, gli irriducibili del contante, che non accettano assolutamente di utilizzare la moneta elettronica per tante ragioni, non ultima peraltro quella della privacy, non vogliono farsi tracciare nei comportamenti di spesa, eccetera. Dall'altra parte però c'è anche un alto tasso di innovazione tecnologica in Italia. Gli intermediari sono molto pronti in realtà a lanciare il guanto di sfida nei pagamenti, per esempio nei famosi contactless, no? Nei borsellini elettronici. Ecco, da questo punto di vista un po' il mondo finanziario cosa ci racconta in Italia? Allora, dobbiamo considerare che il mondo finanziario si è molto svegliato negli anni passati proprio per cercare di accelerare questa innovazione. Considerate che il mondo finanziario a livello globale si è trovato nuovi competitors, nuovi concorrenti che prima non facevano pagamenti e che hanno iniziato a entrare in questo mondo. Attori come Apple, come Google, come Samsung, quindi non proprio attori piccolissimi, che hanno iniziato a guardare con particolare attenzione al mondo dei pagamenti. In una prima fase, in quella fase attuale in cui siamo. Perché poi ancora non è entrato Facebook, perché se entra siamo tutti, non vorrei utilizzare un brutto termine che non è carino in bocca ad una donna, ma siamo proprio fottuti, direi. Dottoressa Portale, mi scusi. Esatto, infatti in questa fase qua le banche hanno lavorato in cooperazione con questi grandi attori, quindi Apple ha fatto gli accordi con le banche e le banche lanciano il proprio servizio in collaborazione con Apple per fare Apple Pay, o idem Samsung Pay, o idem Google Pay, quindi c'è una logica collaborativa. Questo ha spinto sicuramente a innovarsi, quindi le banche si sono innovate e sono entrate anche nuovi attori, ad esempio ci sono startup, Satispay una tra queste, che si sono mosse e sono entrate nel mondo dei pagamenti per rendere più innovativo. E gli italiani, soprattutto quelli, gli early adopter, coloro quindi un po' più innovativi, hanno risposto particolarmente bene, con particolare interesse. Quindi è vero che siamo un paese diviso tra gli amanti del contante, esatto, e invece gli innovatori. E poi ci sono ovviamente i commercianti, che lo stesso qualche ostacolo lo hanno sempre messo rispetto ad una potenziale maggior diffusione dell'utilizzo della moneta elettronica. Davide Colombo, allora, intanto, in tutto questo fermento del settore, volente o nolente, che il nostro mercato appunto ha dovuto subire in queste settimane difficili, abbiamo in arrivo altri cambiamenti che riguardano un po' la regolamentazione dei pagamenti, perché dal 1 luglio scatta una novità che non so quanto potrà piacere agli italiani, ma questa arriva. Che cosa bolle in pentola? Ma dunque, in pentola bolle che dal 1 luglio si torna a un tetto a 2000 euro per l'uso del contante, ed è un tetto intermedio perché poi si scenderà a 1000 euro l'anno prossimo, e sono le soglie, diciamo, erano state poste all'epoca del governo Monti. Ora si ritorna, c'è stato un grande dibattito su queste soglie, un dibattito, chiamiamolo politico, per usare un eufemismo, sulla bontà o meno di mettere un limite all'uso del contante. Come dicevi tu prima, c'è un elemento di privacy, c'è un elemento sicuramente di tradizione, di comportamenti. Il nostro è uno dei paesi più affezionato alla carta moneta, oltre l'80% delle transazioni avvengono in carta moneta, oltre il 60% dei valori, sono percentuali molto elevate, ci collochiamo molto lontani dalle medie dei paesi del nord Europa, dove invece la cosiddetta cashless society è molto più vicina. Addirittura la Svezia ha fissato un obiettivo in calendario per raggiungere, mi pare, se non ricordo male, entro il 2030, una sorta di situazione in cui si potrà fare a meno di carta moneta e di monete metalliche, e quindi c'è questa prospettiva, diciamo, cui noi ci poniamo con i nostri ritardi. Diciamo che l'idea è che l'epidemia potrebbe determinare una discontinuità, quello che si diceva prima, lo condivido. Nelle linee guida che sono state diffuse per tutti i settori c'è questo leitmotiv: meno contatti, meno contagi o meno rischio di contagi. Ecco, è probabile che quello che non si è riusciti a fare finora in termini di, appunto, di politiche di incentivo all'uso di pagamenti elettronici possa venire ora per via di questo nuovo contesto in cui ci troviamo. E nel caso in cui il commerciante dovesse ancora un pochino ostacolare l'utilizzo del proprio cliente, appunto, della carta di credito del banco, ma in realtà arriva anche il bonus sui pagamenti elettronici a favore degli esercenti. Purtroppo 40 secondi, Davide, però mi pare un elemento da mettere in evidenza. È uno degli incentivi, è un 30%, diciamo, di credito d'imposta a favore dell'esercente che accetta pagamenti con carta di credito. È un incentivo importante. L'altro pacchetto di incentivi, lo dico al volo visto che siete in chiusura, era il cashback, che è rinviato all'inizio del prossimo anno, ma insomma, diciamo, c'è questa coincidenza, no, di un dopo quarantena e questi incentivi all'uso di pagamenti elettronici che si innesta. Potrebbe essere una buona occasione per vedere uno scarto in positivo nei comportamenti di spese consumi e di utilizzo di sistemi di pagamento più innovativi. Ci aggiungo un ultimo tassello, perché è emerso questa mattina a Due di Denari, quando abbiamo fatto la trasmissione sull'incentivo per l'utilizzo della bicicletta, abbiamo scoperto che per poterlo prendere dal rivenditore dobbiamo farci l'identità digitale. Magari anche questo, appunto, servirà a fare un ulteriore salto di qualità nelle nostre abitudini, nella nostra vita digitale. Grazie mille ai nostri ospiti per essere stati con noi, a Valeria Portale del Politecnico di Milano e al nostro collega Davide Colombo. Grazie a tutti, io torno nei prossimi giorni con Due di Denari, per 3 giorni vi lascio da soli con Mauro. Buona giornata a tutti.